in primo piano. E chiedo proprio a te, Giulia, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa troviamo sui quotidiani oggi? Direi che oggi? I temi oggi sono una di quelle giornate in cui sono abbastanza uniformi le aperture: da una parte tutto lo scenario economico, finanziario, internazionale, e dall'altra sul fronte interno l'intervento di Renzi ieri al meeting di Rimini, che ha riacceso le speranze di tutti noi su un vero taglio delle tasse. Però ti seguirò poi con attenzione, perché il tema delle piccole furbizie mi appassiona da sempre. Insomma, credo che tutti noi siamo colpiti, per esempio quando andiamo in Inghilterra, a Londra, e vediamo le persone ordinatamente in fila alla fermata dell'autobus, poi torniamo e troviamo invece le calche a cui siamo abituati qui, dove non si fa nemmeno, spesso in metropolitana non ci si sposta nemmeno per far scendere prima di salire. Quindi insomma, piccole furbizie, piccole educazioni che forse, se non altro appunto come farai tu, si possono confrontare con quello che succede e fuori dall'Italia. Ci sarà una sorta di confessione pubblica, perché su questo ci autoassolviamo, su perché non paghiamo il canone Rai, perché scarichiamo gratuitamente i file, perché chiediamo la raccomandazione all'amico medico per avere la visita prima degli altri, e tante altre cose che ci segnaleranno gli ascoltatori. Bene, allora dicevamo appunto, cominciamo dalle prime pagine dei quotidiani. Anche oggi cominciamo con il Sole 24 Ore. Anche oggi il Sole ha una decina di pagine di approfondimenti su tutto quello che è successo ieri sui mercati, e quindi l'economia finanziaria, ma anche che cosa significa quello che succede sui mercati per l'economia reale. Il titolo principale è: Pechino taglia tassi e riserve bancarie, perché questo è quello che è successo ieri, e quindi c'è stato il rimbalzo delle borse. Milano ha guadagnato il 5,86%. E mentre Wall Street poi alla fine, che aveva aperto con alcune scintille, poi ha chiuso in calo. Sul Sole 24 Ore vedete lo schema che riassume i cali. Shanghai ha chiuso ancora in calo ieri del 7,63%, e da inizio anno ha perso l'8,34%. Numerosissimi gli approfondimenti, come vi dicevo, li trovate richiamati in prima pagina e poi all'interno, ma vi segnalo in particolare l'editoriale di Fabrizio Galimberti, che si intitola Mossa giusta ma adesso servono le riforme. Qual è questa mossa giusta? Questo inizio di QE, di quantitative easing di Pechino, cioè di politica monetaria di questo tipo, un po' sulla scia di quella che è stata fatta in Europa da Mario Draghi, e scrive Fabrizio Galimberti: dal 2000 a oggi l'economia reale cinese è cresciuta del 300% circa, e ancora di più sono cresciuti la moneta e il credito. Sia per la naturale tendenza dei mercati creditizi a crescere più velocemente dei mercati dei beni e servizi man mano che il sistema finanziario si fa più sofisticato, sia perché si erano andati sviluppando degli strumenti pericolosi da sistema finanziario ombra, l'uso disinvolto di finanziamenti fuori bilancio da parte di enti locali poco controllati. La politica economica cinese si è trovata a cavalcare due tori, quello reale e quello finanziario, perché il toro è il simbolo, contrapposizione con l'orso, il toro è il simbolo della borsa che sale, tant'è che c'è quel gigantesco toro di fronte alla sede della borsa americana. Ed è normale, scrive Galimberti, che si sia trovata più o meno a suo agio a tenere sulla retta via l'economia reale piuttosto che ad ammansire un toro finanziario, là dove il domatore ha bisogno di conoscenze e di esperienze male indossate da una dirigenza cresciuta nell'economia di comando. Ma sbagliando si impara, e le turbolenze azionarie e valutarie di questi giorni hanno costituito una salutare lezione. E c'è un richiamo all'editoriale di ieri che avevamo letto, del direttore Roberto Napoletano, che parlava appunto di economia socialista in transizione, e scrive, conclude quindi Galimberti: adesso la sfida sta nel proseguire sulla via della crescita. I fondamentali sono ancora favorevoli e la bassa capitalizzazione della borsa sul PIL rende poco probabile un contraccolpo recessivo. Le cose da fare sono tante, come ha scritto ieri Roberto Napoletano: ci sono liberalizzazioni da proseguire, bilanci bancari da risanare e domanda interna da sostenere, anche, si è detto per inciso, facendo ricorso alla politica di bilancio che ha, a differenza dei paesi occidentali, ampi spazi di libertà. E qui per esempio appunto il riferimento è ai nostri patti di stabilità. Ecco, Pechino, sappiamo, può decidere, a un modo di decidere molto più centralizzato, che forse in questo caso vale la pena di usare fino in fondo. Questo è un po' quello che dice Galimberti. Vi dicevo dalla prima che l'altro grande tema di oggi sui giornali viene dall'intervento di ieri del premier Renzi al meeting di Rimini, il titolo quindi scelto dal Sole 24 Ore, dal 2016 stop a IMU e TASI, cioè le due principali tasse sulla casa. Renzi conferma l'impegno, azzeramento per quanto riguarda la prima casa, gli imbullonati e i terreni agricoli, e dal 2017, ha sempre detto Renzi ieri, l'IRES al 24%. Il commento di Dino Pesole riguarda naturalmente le coperture, perché proprio a causa dei patti di stabilità di cui abbiamo appena parlato, cioè dei vincoli di bilancio che gli stati europei hanno, e non solo gli stati europei, bisogna poi, quando si tagliano le tasse, capire da dove vengono le coperture per i mancati introiti, e Dino Pesole appunto ci spiega come si potrebbero trovare. Un altro focus interessante sul calo del petrolio a cura di Davide Tabarelli, e poi una lettera di Romano Prodi che a sua volta dice la sua su questa proposta di quantitative easing per la Cina, e si intitola Xi, cioè il presidente cinese, America, Europa, ragazzi, mettetevi d'accordo. Ultima segnalazione dalla prima pagina del Sole, continua, è l'ultima settimana in realtà, l'iniziativa L'estate con il tuo amico Sole, la guida pratica per la famiglia. Questa settimana i temi sono da una parte la riforma della pubblica amministrazione che entra in vigore in questi giorni, e dall'altra quella della scuola, anche in questo caso una novità di questi giorni. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, approfondimento sulla nuova dirigenza con l'aumento della flessibilità, e per quanto riguarda la scuola, l'autonomia, l'aumento dell'autonomia dei professori. Trovate poi gli approfondimenti alle pagine 36 e 37. Il Corriere della Sera sceglie di dedicare il titolo principale all'annuncio sulle tasse, quindi il titolo molto simile a quello del Sole, un virgolettato, niente IMU e TASI per tutti, la promessa di Renzi per il 2016, e poi un altro virgolettato dal discorso di Renzi, paese bloccato dalle risse ideologiche per 20 anni. La fotonotizia però è quella di un trader con il suo microfono, che è il titolo il titolo dell'articolo, con poi molti reportage dalle pagina 10 pagina 11, in borsa al partito degli ottimisti. Il riferimento è appunto al fatto che ieri le borse europee hanno tutte così si dice rimbalzato, cioè dopo i vistosi cali di lunedì, ieri sono invece tutte cresciute. Un articolo richiamato in prima pagina, che poi spero di poter approfondire nella seconda parte, si collega a quello che abbiamo visto ieri sull'Avvenire, cioè su questo business che è un po' sconosciuto, che riguarda 500 aziende italiane che lavorano in qualche modo nella filiera della possibile fusione, cioè l'energia nucleare tra virgolette pulita. E Anna Meldolesi ci racconta il sogno dell'energia pulita e senza fine, prendendo spunto da un articolo uscito sulla rivista Science, che ci aggiorna sui progressi della ricerca in questo campo. Un esperimento copia il Sole, perché la fusione è appunto il processo che avviene sulla nostra stella, il Sole, e ricrea la fusione. E trovate poi l'approfondimento, tutto l'articolo a pagina 25. La Repubblica invece sceglie un titolo molto economico, la Cina taglia i tassi, borse e divise, e poi però subito sotto, anche qui titolo quasi identico a quello di Corriere Sole, il virgolettato di Renzi, via IMU e TASI dal 2016. La fotonotizia però è dedicata alla migrazione, in questo caso è questa novità che è venuta ieri dalla Germania con la cancelliera Angela Merkel, che di fronte in particolare all'aumento dei migranti dalla Siria che hanno già raggiunto o vogliono raggiungere o si sa che vorrebbero raggiungere la Germania, si è detta disposta a ridiscutere le quote delle domande di asilo. E però titola la Repubblica sui migranti, è scontro Roma-Berlino, e tra l'altro ci sono anche aggiornamenti di cronaca. Ieri per esempio è morto un ragazzo di 15 anni per le percosse ricevute dai trafficanti di uomini, dagli scafisti. Vi segnalo un articolo che spero avremo tempo di leggere in parte dopo, di Gabriele Romagnoli, che riguarda Balotelli, che sappiamo è tornato al Milan, e Cassano, che è tornato alla sua Sampdoria. L'articolo si intitola Balo e Cassano, ovvero l'arte di ricominciare, ma fino a quando? Quindi un po' un quadro un pochino più letterario, anche se vogliamo, di questi ritorni e di questi, abbiamo sia parlato di ultimo treno per entrambi, anche se poi sono ragazzi, soprattutto Balotelli 25 anni, giovanissimo, però per un calciatore già un'età avanzata, un po' di fallimenti alle spalle, un po' di delusioni, ora questa chance di tornare al Milan, e appunto questa suggestione di Gabriele Romagnoli, che poi trovate a pagina 27. C'è poi un bellissimo intervento di Enzo Bianchi, il priore di Bose, che parte da alcune parole di Papa Francesco e si concentra sul valore del perdono anche per la questione con la Chiesa Valdese, a cui il Papa ha chiesto perdono. Prima i valdesi hanno detto: per noi non è così semplice la questione, ma poi in realtà è notizia di ieri, lo trovate anche sull'Avvenire con grande spazio, in realtà hanno accettato e come questa apertura da parte di Papa Francesco. E allora il pezzo appunto di Enzo Bianchi: Francesco, il vero potere del perdono, nell'appello ai valdesi, la volontà del Papa per un futuro di pace, che naturalmente riguarda tutti e non solo la questione tra appunto la Chiesa Cattolica e la Chiesa Valdese. Il Messaggero decisamente sceglie il titolo sul taglio delle tasse, quindi Renzi, due punti, via IMU e TASI per tutti. La fotonotizia però è dedicata agli eventi economici, con un trader questa volta, mentre quello di Repubblica era sicuramente un trader occidentale, questo è un trader cinese, un operatore di borsa durante le contrattazioni. Alle sue spalle c'è uno di questi tabelloni luccicanti con dalla parte i numeri e dall'altra gli ideogrammi. Per Pechino tagli i tassi, borse euforiche. Il Messaggero è l'unico che mette in prima pagina la questione di mafia capitale. C'è la relazione di Alfano, che dovrebbe finalmente arrivare domani, sulla questione mafia capitale. Per quanto riguarda il Giubileo, si è deciso che il coordinatore sarà il prefetto Gabrielli, e all'interno, a pagina 9, trovate poi approfondimenti su questa questione. La Stampa a sua volta dal titolo principale all'intervento di ieri di Renzi, via TASI e IMU per tutti, vedete proprio i titoli oggi sono praticamente identici. E poi però alla Stampa aggiunge questa informazione, questo annuncio che ha fatto ieri Renzi, che ha annunciato un tour in 100 teatri. La Stampa giustamente nota, si tratta quasi di una campagna elettorale. Si continua da una parte a sostenere ufficialmente che l'ipotesi di elezioni anticipate non esiste, però certo che in Italia si continua a avere l'impressione di essere in una perenne campagna elettorale. La fotonotizia è dedicata al video diffuso ieri che documenta quello che era stato solo annunciato senza un documento video, diciamo, poi purtroppo questo è arrivato, cioè la distruzione del tempio di Palmira da parte dell'ISIS. E la foto è appunto questa del tempio che è stato minato con delle cariche attaccate alle colonne. Qui si vede una sorta di il fumo che sale nel cielo, sembra quasi un fungo atomico. Continua anche la serie di reportage della Stampa dai luoghi dove i migranti si accalcano. In questo caso è un reportage di Nicolò Zancan da Orgos in Serbia: stremati al buio, così i siriani scavalcano il muro. E però la frase con cui si riassume un po' il senso del reportage è stata raccolta da Nicolò Zancan tra gli immigrati: non staremo in Ungheria perché qui ci odiano. Dall'Unità, per chi volesse vedere, rileggere o leggere completamente l'intervento di ieri al meeting di Roma, comincia in prima pagina l'intervento di Matteo Renzi, così cambiamo l'Italia, poi continua, prosegue integrale a pagina 14. Il titolo è "E ora avanti tutta", e appunto quello che diceva anche la Stampa: Renzi inizia il tour delle 100 città. C'è anche qui un accenno a quella frase che ha detto Renzi dicendo che l'Italia è stata bloccata per 20 anni da berlusconismo e anti-berlusconismo. La fotonotizia invece è dedicata alla Festa dell'Unità che si è aperta ieri a Milano con l'intervento di Deborah Serracchiani, che è vicepresidente del PD. Il senso del suo discorso di apertura, dice l'Unità, è: la nostra gente ci chiede di stare uniti. Vi cito anche la prima pagina del Giorno, QN, Quotidiano Nazionale. Il titolo qui, come dicevamo, ha questo annuncio fatto da Renzi di questo tour, e da qui il titolo del Giorno: Renzi tentato dalle urne. La fotonotizia però è ancora sulla vicenda Ashley Madison, sicuramente ne avete sentito parlare, io ricordo anche un pezzo ieri sul GR, perché ci sono già stati 3 suicidi. Il caso è quello del sito dedicato ai che proprio palesemente dice: la vita è breve, cercate, se volete un'avventura cercatela qui. Un sito che ha 32 milioni di iscritti, non necessariamente tutti adulteri. Sesso, bugie e video chat, c'è un approfondimento poi alle pagine 12 e 13, ma vi segnalo la prima pagina del Giorno perché all'interno c'è anche un aggiornamento su un'altra vicenda di cronaca che per qualche giorno ha occupato se non le prime pagine, le pagine interne dei giornali, e poi adesso è completamente oscurata, diciamo così, non abbiamo più aggiornamenti, ed è quella dell'omicidio a Brescia del padrone della pizzeria. E allora a pagina 19, richiamato in prima pagina, un giornalista del Giorno ci racconta gli sviluppi delle indagini, omicidio in pizzeria, il tesoro di Frank e gli incassi in nero. E appunto a pagina 19 l'inchiesta sui conti di Frank, era il soprannome di Francesco Seramondi, il giallo della contabilità dei pizzaioli, tesoretto in nero e strani assegni. Sapete che ci sono stati due arresti, il pakistano Mohamed Adnan, che era l'autore materiale del delitto, che gestiva un altro ristorante lì vicino, e però restano appunto molti punti oscuri. Per chi fosse interessato a questa vicenda di cronaca nera, gli aggiornamenti appunto a pagina 19 del Giorno. Ultimo titolo che vi segnalo, perché è legato alla vicenda di Ashley Madison, sulla prima pagina del Secolo XIX, un reportage, segreti e bugie dei 20.000 liguri che tremano per le scappatelle svelate dagli hacker, perché su quei 32 milioni di iscritti al sito, che è un sito globale anche se è di diritto canadese, 20.000 sono appunto liguri, e il Secolo XIX cerca un po' di capire chi sono i liguri che potrebbero avere dei guai con le rispettive consorti o compagne ufficiali. Ci lasciamo però un attimo, ci ritroviamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Il Giornale ha un titolo che si rifà all'intervento di ieri del premier Renzi al meeting di CL di Rimini, con questo, e viene riassunto così: Renzi apre la campagna elettorale, perché appunto ha annunciato, Matteo Renzi ha anche annunciato questo tour in 103 atri, che viene visto come una vera e propria campagna elettorale. L'occhiello è molto eloquente, però il ritorno del ballista, perché questa promessa, cancelleremo i mutasi, che effettivamente abbiamo già sentito, viene appunto considerato una balla dal Giornale. Vi segnalo dal Libero invece la fotonotizia dedicata al sindaco Marino, che è un disegno, in realtà una specie di caricatura. Le ferie misteriose del sindaco ai Caraibi. In effetti oggi è mercoledì, i famosi famigerati funerali di Casa Monica sono stati giovedì scorso. È una settimana che non solo Marino è in vacanza, anche il suo assessore Sabella, ma non rilascia neppure dichiarazioni. Quindi da qui un po' questa ironia di Libero, che però dedica l'apertura. Anche qui il Giornale parla del ritorno del ballista, Libero invece scrive il teatrino di Matteo, uova e sassi contro Renzi. Qui l'accenno è al fatto che, oltre a essere stato a Rimini ieri, Renzi è stato anche a un incontro all'Aquila ed è stato contestato da Autonomi, Verdi e Terremotati. Il Manifesto, anche qui un titolo molto ironico con Renzi, e il titolo è semplicemente Replay, come appunto anche qui a dire che la promessa di tagliare le tasse l'abbiamo già sentita e bisogna vedere quanto sia credibile. È probabilmente soprattutto una questione di coperture, come ricordava Dino Pesole sulla prima pagina del Sole 24 Ore, tanto per fare sempre un po' di fact checking, appunto per cercare di capire quante possibilità abbiano le promesse poi di essere realizzate. Avvenire, Renzi, le promesse e le contestazioni, per l'appunto, quindi Avvenire unisce i due eventi a cui ha partecipato ieri Renzi: da una parte il meeting di Rimini, dall'altra l'incontro all'Aquila. Però la fotonotizia è dedicata a quella che viene definito un dramma nel dramma, cioè quello dei bimbi migranti. Abbiamo detto appunto ieri è stato un ragazzo di 15 anni è morto per le violenze ricevute mentre cercava di sulla barca, chiamiamola così, sulla quale cercava di arrivare in Italia. Ma c'è quest'altro dramma, cioè proprio di autentici bambini, cioè di ragazzi, persone, chiamiamoli pure così, femmine e maschi molto piccoli, anche di pochi anni, che appunto arrivano senza parenti, senza genitori. La foto è quella di un bimbo siriano davanti agli scudi dei poliziotti macedoni al confine greco. A proposito di contestazioni interne più che esterne, perché quelle del Giornale di Libero naturalmente vengono da posizioni opposte a quelle del premier, della sua coalizione di centrosinistra, Avvenire ospita, potremmo dire, l'ennesima intervista a Stefano Fassina, che per l'ennesima volta vuole sottolineare quanto ormai, una volta uscito dal PD, sia lontano dalle posizioni del governo, e quindi definisce quella di Renzi ieri una mossa elettorale bluff, così ha superato anche Berlusconi, spiega Fassina l'Avvenire a pagina 5. Ma vi segnalo l'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano perché, ed è un fatto abbastanza eccezionale almeno degli ultimi mesi, non parla male di Matteo Renzi, quindi vi leggo la prima parte, si intitola I pro e gli anti. Non tutto il discorso di Matteo Renzi ieri al meeting di CL è da buttar via. Intanto non ha fatto il ruffiano, come di solito fanno tutti i politici che vanno lì in passerella a caccia di voti e appena varcano i cancelli della fiera di Rimini si travestono da Ciellini, devoti di Don Giussani, fan sfegatati della sussidiarietà e delle altre fisime della compagnia. Anzi, ha fatto sapere alla folla applaudente di aver poco a che spartire con quel mondo. Virgolettato tra parentesi, abbiamo idee opposte su molte cose, una frase detta ieri da Renzi, e di non amare la plausite che in 25 anni di meeting ha garantito una standing ovation a chiunque, tutti al contrario di tutti, passasse da quel palco. Ha detto anche cose apprezzabili nei contenuti, per esempio quando se l'è presa con gli imprenditori della paura che soffiano sul fuoco del malcontento da immigrazione per qualche voto in più e si è detto disposto anche a perdere voti pur di continuare a salvare vite in nome dei valori di umanità che non vanno confusi con il buonismo. Se avesse anche aggiunto come intende affrontare in concreto la piaga della clandestinità, per gestire al meglio un fenomeno di proporzioni bibliche al di là delle consuete giaculatorie sull'Europa, sarebbe stato perfetto, ma la perfezione non è di questo mondo, tantomeno di questo governo. Quindi insomma è un lungo editoriale che poi prosegue nell'ultima pagina del Fatto Quotidiano, dove però Marco Travaglio in qualche modo si ricollega a un suo chiodo fisso che è la riforma del Senato, la riforma costituzionale a cui Marco Travaglio è profondamente contrario, e quindi alla fine appunto c'è questo PS alla fine dell'editoriale che vi leggo. Dopo l'equazione berlusconismo anti berlusconismo, Renzi si è prodotto in un'imbarazzante difesa della schiforma del Senato. Non sapevo che Travaglio la chiamasse così, effettivamente è abbastanza divertente, schiforma anziché riforma, la boiata che lo trasforma in un dopo lavoro per consiglieri regionali, per lo più inquisiti e dunque immuni, scelti dalle regioni anziché eletti dai cittadini. Dicono, ha sproloquiato il Premier, che se non c'è l'elezione diretta del Senato è a rischio la democrazia, ma non è che devi votare tante volte, quello è il telegatto. Insomma, poi alla fine appunto Travaglio non è riuscito a trattenersi, diciamo così, e c'è questa critica, però da una parte appunto per una volta mi è sembrato giusto registrarlo, sembra aver ascoltato con attenzione, essersi fatto un'idea un pochino più positiva del solito sulle intenzioni di Renzi. Il titolo infatti poi del Fatto Quotidiano è Renzi ai Ciellini, il titolo principale, Italia rovinata da Berlusconi e dagli anti-berlusconiani. Il Fatto però ospita anche a pagina 4 un'intervista a Calderoli della Lega, che sapete è l'autore di quei circa 600.000 emendamenti a questa riforma che potrebbero bloccarne completamente non tanto l'approvazione ma proprio anche la discussione quando il Parlamento riaprirà. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che non so, un po' forse colpevolmente è tutta dedicata al calcio nonostante siano ancora in corso i mondiali di atletica, ma tant'è. Però vi segnalo, oltre al titolo, Inter manca Poccio perché le grandi manovre nero-azzurre, insomma Mancini ci spera ancora, però bisogna ancora trovare un accordo per questo giocatore. In realtà vi segnalo a pagina 27 un'intervista a Vincenzo Nibali, il ciclista che è stato escluso dalla Vuelta, dalla competizione spagnola, forse lo ricorderete per essersi attaccato a una macchina dell'organizzazione per farsi trainare ed è quindi stato espulso. Lo sfogo di Vincenzo: io un mostro? No, lasciatemi lavorare sereno. Vincenzo Nibali, coinvolto in una caduta a 28 km dall'arrivo, attende quasi due minuti l'ammiraglia per cambiare bici, si lancia all'inseguimento e quando è al 30, e poi insomma la vicenda è questa, si attacca l'ammiraglia della squadra all'Astana e la giuria lo ha espulso. E Vittorio Nibali appunto racconta la sua e si dice molto deluso per quanto è successo. Torniamo alle pagine interne andiamo alle pagine interne dei quotidiani e torniamo sul Sole 24 Ore. Vi segnalo in particolare a pagina 7 un articolo di Vitaliano D'Angerio sui beni rifugio, perché adesso naturalmente con questi sconquassi finanziari soprattutto sui mercati azionari magari chi ha, si occupa magari direttamente o indirettamente o ha dei risparmi o ha, è particolarmente preoccupato per quello che succede, può pensare appunto ad altri beni oltre alle azioni. Allora Vitaliano D'Angerio ci spiega appunto preziosi, azioni, obbligazioni, la protezione in una corretta diversificazione del portafoglio, di cui si parla sempre, ma poi magari quando le borse salgono si è tentati di sbilanciare i portafogli sul versante azionario e poi magari per fare delle correzioni. Per parlare invece di economia reale invece che finanziaria, la prima pagina del dorso di Imprese e Territori, tutta dedicata a quella, all'auto, in quella serie di inchieste, ne abbiamo già viste alcune sulle denominate dal Sole 24 Ore le chiavi della manifattura. Siamo alla puntata numero 12, focus appunto sull'auto a cura di Paolo Bricco, la filiera dell'auto verso i livelli pre-crisi. Abbiamo sentito anche nelle settimane scorse dati molto positivi sulla produzione di auto in Italia. Nel 2014 il gruppo delle principali imprese della componentistica ha fatturato 18,9 miliardi rispetto ai 20,7 del 2007, quindi bisogna ancora recuperare rispetto appunto ai livelli pre-crisi, visto che si indica sempre il 2008 l'anno in cui c'è stato il crack di Lehman Brothers come inizio della crisi, quindi il 2007 come invece anno di confronto. Risale però anche la redditività industriale, il cosiddetto MOL, margine operativo lordo, e il rilancio di Fiat Chrysler FCA rinsalda il legame tra lingotto e subfornitori. Questa è la pagina appunto la copertina di Imprese e Territorio, una pagina intera, la pagina 11 del Sole 24 Ore. E poi ricorderete, abbiamo parlato della questione del lavoro al sabato, in particolare alla Electrolux, dove già si è lavorato, anche se la questione ha riguardato solo una piccola parte di lavoratori che avevano accettato questa proposta dell'azienda, si è lavorato anche a Ferragosto. Ora Electrolux ha chiesto ai sindacati anche di poter introdurre il lavoro al sabato, lavorando però su un nastro, cioè di 6 giorni, quindi non necessariamente pagando come straordinario. Ci sarà una, per ora la risposta dei sindacati sembra negativa, e quindi appunto il reportage di Barbara Ganz da Treviso: Electrolux sindacati verso il no ai sabati. I rappresentanti dei dipendenti sono disponibili a lavorare solo in 2 giornate prefestive e non tutti e 4. Il commento è di Lello Naso, responsabile del dorso di Imprese e Territori: la notte porti consiglio e decisioni ragionevoli. Vi leggo l'ultima parte: se la ripresa della domanda prendesse un po' di consistenza, i sindacati farebbero bene a pretendere il rientro dei loro colleghi in solidarietà, ma in attesa che ciò succeda, sperabilmente presto, forse è il caso di remare tutti nella stessa direzione per evitare di perdere commesse e competitività. Un altro approfondimento interessante, perché quando si parla di rallentamento dell'economia cinese, di crisi della borsa di Shanghai, in realtà poi spesso si dovrebbe anche parlare delle altre cosiddette tigri asiatiche, tra queste naturalmente la Corea del Sud, un altro paese che è cresciuto molto negli ultimi anni, e quindi l'articolo di Stefano Carrer: la capacità di Seoul di resistere alle crisi. Anche nel 2008, abbiamo parlato appunto del 2008 come questo anno annus horribilis in cui ci fu il crack di Lehman Brothers che innescò la crisi economico-finanziaria mondiale, anche nel 2008 il paese fu uno dei pochissimi a crescere, accelerando addirittura al 6,5% l'anno successivo. E questo tra l'altro è il primo di una serie di articoli dedicati ai paesi cosiddetti emergenti, ormai molto più che emergenti, però tanto per intenderci. Tra l'altro la Corea del Sud, ci ricorda Carrer, è la quarta economia asiatica e indirizza verso Pechino il 25% del totale delle sue esportazioni, quindi per questo comunque l'argomento è collegato, perché una crisi in Cina si riflette inevitabilmente anche su tutti i paesi asiatici con cui hai maggiori rapporti economici. Dalla copertina di Norme e Tributi, tutte gli adempimenti, gli appuntamenti col fisco, la volata di settembre con appunto uno schema che ci riassume tutti gli appuntamenti con le tasse che ci aspettano. Ci lasciamo un attimo però invece per gli aggiornamenti sul traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei quotidiani con un po' di approfondimenti. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'intervista al ministro degli esteri Gentiloni sulla questione dei migranti. Il titolo: basta parlare di compiti a casa, l'Italia sta facendo il suo dovere. Perché sapete che nelle ultime settimane ci sono stati rivolti molte critiche, in particolare dalla Germania, per quanto riguarda le procedure di identificazione, il rispetto del trattato di Dublino, e Gentiloni appunto dice adesso basta, perché perché l'Italia sta facendo il suo dovere. Vi leggo in particolare questa domanda che gli fa Paolo Valentino: quali sono le modifiche che chiede il governo italiano? E Gentiloni risponde: tre sono le questioni essenziali. L'europeizzazione della gestione dei flussi, cioè un diritto di asilo europeo con definizione comune della titolarità e politiche di rimpatrio comuni. Può sembrare ambizioso, ma se guardiamo ai conflitti tra paesi confinanti o ancora peggio allo scaricabarile su quelli della frontiera esterna, è l'unica strada da seguire. I migranti arrivano in Europa, non in Italia, Grecia, Germania, Ungheria. Così come funziona adesso, si rischia di mettere in discussione Schengen, che sapete è il trattato europeo che definisce la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea, e tornare alle vecchie frontiere. Ma limitare la libera circolazione delle persone significa minare uno dei pilastri dell'Europa. Seconda questione: la creazione di canali di immigrazione legale verso l'Europa nel suo complesso. Abbiamo bisogno di immigrati legali che hanno capacità e talenti. Infine, occorre un equilibrio negli oneri tra i vari paesi. Se il diritto d'asilo vale per tutta Europa, l'equa distribuzione impedirà che i flussi si indirizzino tutti verso i paesi più ricchi e generosi. E poi vi dicevo l'approfondimento sulla fusione fredda, lo trovate a pagina 25 con questo articolo di Anna Maldolesi, che prende spunto da un articolo sulla rivista Science, la macchina costruita in segreto per riprodurre il sole sulla Terra. Quindi torna la speranza appunto dell'energia nucleare pulita, perché l'altra, la fissione, sappiamo produce scorie che di fatto, almeno nella vita di tutti noi, non spariranno mai, ci vorranno migliaia di anni. Dalle pagine interne della Repubblica un'intervista al neosindaco Luigi Brugnaro, fatta da Alessandra Longo. Lui ribadisce alcune sue posizioni molto forti che gli hanno attirato critiche, ma anche elogi da chi lo ha votato, comunque anche magari da chi non lo ha votato, comunque da chi non abita a Venezia. Per esempio, il titolo scelto poi per l'intervista è "Mai un gay pride nella mia Venezia, basta con i soloni dal doppio cognome", e appunto il riferimento è per esempio alle critiche che gli sono state rivolte da Gianni Berengo Gardin, che sapete è un fotografo, autore anche di quelle fotografie alle navi da crociera che arrivano molto vicine a Venezia, una mostra che poi è stata anche vietata a Venezia. Vi leggo alcune risposte, appunto quella il riferimento è a un altro critico, a Brugnaro, che è il cantante Elton John l'ha definita bigotto e bifolco dopo la sua decisione di togliere dalla scuola i libretti per bambini che descrivono le nuove famiglie, la famosa polemica sui libri gender. Risponde Brugnaro: è un arrogante che da 3 anni non mette piede a Venezia. Se permette, ai nostri figli ci pensano i genitori, la famiglia con 2 donne e il bambinetto è innaturale. Omofobo? Gli chiede Alessandra Longo, e lui risponde: si figuri, ho amici gay, che è la tipica risposta per giustificare una non omofobia. Giudicate voi se ha un senso logico questa risposta. No, non sono omofobo perché ho amici gay, come dire. Vi leggo un'ultima domanda: la sua ricetta sull'immigrazione. Qui non sono d'accordo con il governo, non vedo come si possa andare avanti così. A Renzi, Juncker, alla Chiesa Cattolica, al governatore Zaia propongo di fare una grande convention pubblico-privato per decidere cosa fare. I confini vanno controllati, la Marina e l'Esercito hanno giurato di difendere la frontiera sulla bandiera. Sempre dalla Repubblica, invece un approfondimento di Cristiana Salvagni su quello che è il gender gap degli stipendi, cioè gap, quindi un vuoto da colmare, così potremmo definirlo, tra generi, cioè tra donne e uomini, per quanto riguarda gli stipendi, che sappiamo in quasi tutti i paesi c'è questo divario di retributivo. E se lo si guarda bene in Italia, o se lo ipotizza, perché poi non è così facile capire quali sono queste differenze, risulta che poi le donne sono al lavoro gratis per un mese, perché appunto per lavorare lo stesso numero di giorni in realtà guadagniamo di meno. Dalle pagine interne del Messaggero un aggiornamento invece su quello che sta succedendo in Grecia. Anche qui ci siamo un po' persi gli aggiornamenti sulla politica interna della Grecia. Sappiamo che il premier Tsipras ha dato le dimissioni e si andrà a elezioni anticipate, perché vuole un mandato più forte dopo la crisi all'interno del suo partito, che ha portato alle dimissioni del suo ministro delle finanze Varoufakis, ma anche a tanti contrasti interni. E ora, ci racconta il Messaggero, unico giornale a seguire la questione oggi, Siriza sempre più spaccata, si dimette il segretario Tasos Koronakis. Il fronte della sinistra rischia di spaccarsi in quattro. Intanto il governo però ha assunto 2.440 medici, perché poi un'altra delle questioni della grande riforma in Grecia è quella appunto del pubblico impiego e di come si anche in Grecia ci voglia una riforma in questo settore. Sulla riforma della scuola, anche in questo caso il Messaggero, un aggiornamento: in ogni scuola due prof in meno del previsto, impossibile per quest'anno coprire i 15.000 dei posti in più voluti dalla riforma, e per lo Stato quindi ci sarà un risparmio inaspettato di 340 milioni. Dall'Avvenire una notizia che, come spesso accade, solo l'Avvenire ha un approfondimento che solo l'Avvenire fa, cogliendo un allarme lanciato dal CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. In Italia avanza il deserto, il 21% del territorio a causa della siccità, e il 41% di questo 21% è al sud, è a rischio. In pericolo il 70% della terra in Sicilia e il 57% in Puglia. C'è naturalmente una questione legata a come si utilizza la terra, perché l'agricoltura in questo senso può essere di grandissimo aiuto, oppure anche se fatta magari in maniera troppo intensiva, sfruttando in maniera sbagliata i campi, poi appunto si rischia di sfruttare la terra e poi incorrere in questo tremendo rischio siccità. Tantissimi anche altri gli approfondimenti che avrei voglia di segnalarvi, ma non c'è più tanto tempo, e allora dall'Unità alle pagine, vi do anche il numero, alle pagine 8 e 9, un approfondimento sulla CGIL che va verso questo quasi congresso organizzativo, viene definito, che sarà il 17 e il 18 settembre, dove si dovrebbe parlare anche del calo degli iscritti, che è preoccupante, e quindi l'Unità si chiede, con questa inchiesta dove si analizzano anche il numero degli iscritti dal 2012 a oggi dei tre grandi sindacati, CGIL, CISL e UIL, una conferenza basterà a cambiare la CGIL? Dal Fatto Quotidiano vi risegnalo ancora, la trovate a pagina 4, questa intervista a Calderoli che parla dei suoi 600.000 emendamenti. Il titolo: ma che baratto, faccio fuori Renzi con 4 emendamenti. Perché forse lo ricorderete, negli ultimi giorni Calderoli, che è molto attivo in questi giorni mediaticamente, rilascia interviste a tutti, aveva detto che se verrà concessa la grazia all'imprenditore bergamasco che ha ucciso per un tentativo di rapina un ladro che cercava di rubargli il SUV, e adesso è in carcere per questo reato, se gli viene concessa la grazia lui ritira tutti gli emendamenti. E invece dice qui: ma no, ma che baratto, dopo aver dichiarato questa intenzione di questo baratto a destra manca a tutti i giornali. Dalle pagine interne ancora un'ultima segnalazione che ve lo ricordo, purtroppo non siamo riusciti a leggere, però a pagina 28 di Repubblica trovate quel bel pezzo di Gabriele Romagnoli, Balotelli e Cassano, ovvero l'arte di ricominciare. E invece vi segnalo, perché è una mostra che è aperta da oggi a Milano, La Grande Madre, è una mostra gigantesca con 400 quadri che si intitola La Grande Madre. Il racconto lo trovate alle pagine 38 e 39 della Repubblica di Natalia Aspesi, ma ne parlano anche tanti altri giornali. La magnifica ossessione dell'arte per quel potere negato all'uomo, quindi naturalmente il potere, quello che può essere forse definito, considerato un potere, quello appunto di essere madre. La mostra è a Palazzo Reale di Milano, c'è tempo fino al 15 novembre per venirla a visitare. È davvero una mostra grandissima, organizzata dalla Fondazione Trussardi insieme al Comune di Milano. È una mostra bellissima che parla della maternità, molto ben fatta, e sarà perché sono madre, Giulia, ma di tutto quello che è stato segnalato, detto stamattina, non riesco a scordare questo 14enne, secondo alcuni giornali ne aveva 15, ma irrilevante, somalo, che Medicine Sans Frontières ha provato a soccorrere e invece per le percosse e le torture subite in Libia è morto, e non riesco proprio a capire come si possa negare il diritto di circolazione e di accoglienza a persone che fuggono da realtà di questo tipo. Grazie per questa tua lettura, ci troviamo domani mattina? Domani mattina con sicuramente ancora i due temi principali, da una parte i migranti, su cui sono arrivati anche tantissimi messaggi, e dall'altra l'economia. Noi invece oggi affronteremo l'abusivismo edilizio. Sono stati calcolati 26.000 nuovi abusi solo nel 2013 sul territorio italiano. E partiamo dalla questione di Agrigento. Arrivano le demolizioni, le prime ruspe, 20 anni dopo le richieste, al termine di una lunghissima battaglia legale, e ci chiederemo proprio perché, anche una volta segnalato l'abuso, è impossibile procedere con la demolizione. Perché questi ritardi? Perché ci vogliono anni, al di là di condoni che costituiscono poi invece un altro problema. E partendo dall'abusivismo edilizio avremo uno spunto invece di carattere culturale, di mentalità, cioè perché noi tendiamo sempre ad autoassolverci quando camminiamo, diciamo così, sul sottile equilibrio tra ciò che è legale e ciò che è illegale, che poi dovrebbe coincidere, ma non sempre è così, tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. E quindi troviamo sempre delle motivazioni per giustificare quello che noi facciamo, anche in violazione della legge, dal parcheggio in doppia fila all'autobus che si prende senza biglietto, allo scaricare musica e film illegalmente. Voi cosa avete fatto? Voi cosa fate pensando che siate legittimati a farlo? Cioè, tutti noi ci troviamo a volte, non so, a chiedere la raccomandazione al medico per avere la visita prima degli altri. Sono infiniti gli esempi e ne parleremo al 349-238-6666 con voi, perché questo è il numero SMS. Se volete intervenire in diretta 800 24 00 24 e con i nostri ospiti Gerardo Colombo, Gianrico Carofiglio e una poliziotta particolare, Barbara Bonanni, che ha scritto un libro, Lo scusario dell'automobilista, cioè le giustificazioni più divertenti sentite in tanti anni di servizio presso la polizia stradale. Ora il GR.